Sì, una cosa bella lì. Se volete uscire bene, bene. Guarda che qui siamo vicino a casa tua, non sono a casa mia. Sì, lo so, infatti te l'ho detto, siamo uno scala qua, la modulazione è diversa, però ti sento bene, a voglia, meglio di me non ti può sentire nessuno. Adesso chiediamo a Falchetto nuovamente, magari ha migliorato qualcosa. Falchetto, ci sei? Guarda, ci sono, adesso siamo in tanto, adesso siamo Santiago di 4, una radio di 4. Già va bene là. Già va bene, anche se è una magnetica, solo che crea un po' di problemi. Va bene, là. Papagappa, ma sei stato le pizza? Le porte finestre ce li ha quella a casa. Sì, le porte finestre ce li ha, perché? C'ha il coso sopra, in alto, c'ha il coso in alluminio, o in ferro, cosa sia. Si può provare ad attaccarla lì. Campagappa, ma non va bene lì. Non va bene perché la magnetica non si attacca, capito? La preferenza è meglio allora fare un pochettino nella ringhiera e mettergli una massa così alla ringhiera, capito? Facendogli un piccolino e mettendogli un capicorda di quelli con un occhiello e gliela vincerete così fa più massa. Guarda, ce l'ho montata io così, quindi ti posso dire stazionaria massimo 1,2, 1,3 massimo. Io l'ho montata così e l'ho tutta quanta, l'ho inclinata un bel po' proprio per non crearmi problemi. È l'unica maniera da come si può mettere. Io ce l'ho così stesso. Bianco un attimo, a tutti. Cosa Falchetto, bianco per te, cioè bianco per lui e rosso per te. E si conferma. Ragazza, già va bene, non si possono fare passaggi lunghi perché se c'è stazionaria troppo alta è un casino. Dopo si vuole fare una cosa, un poveretto più fattabile, ci metti una storm sul balcone e vai. Ma tranquillo che stazionaria non se ne dà, perché basta mettere la misura del capo giusto, no? E non se ne dà, sì, tranquillo. Gappa, adesso vediamo di migliorare qualche cosettina, perché altrimenti così è un po' precaria, dai. Gappa. E poi qua l'imbatte un bel, ce l'ha sulla tutta, ce l'ho io, ce l'ha fatto, ce l'ha avuto un po' di gente, e quella lì mi imbatte un bel. Qua la grande, non vende cosa Tonino, quella Formo 27. Quella se la metti sul tetto rende il massimo, dà il massimo delle prestazioni, si intende di tutto Zazzari. Gappa. Qui non lo so, qui a casa mia già ce l'ho sul tetto, qui non lo so se glielo danno, è permesso se viene sul tetto, poi qui là si vedrà là, un campo di positivo. Piccola, è un metro, mantenere la balcone, metti una strada, un paletto via, che è forte ma la so, è l'unica che ci si può arrangiare. Portatore, ho fatto anche magazziniere, so cosa vuol dire, non ti preoccupare, è pesante, ma molto pesante. E se mi capita di addormentare è proprio perché c'è una stanchezza da non poter controllare. Gappa, già va bene, riprendi tu e fai girare già. Gappa, capri due. Chi è che sta vedendo? Io sto ridendo, che vai a ridere tu, stai rilanciando il capito e sbagli il capito e ti fa della cadria. Ah, se c'è tutta la barretta come sta arrossando, i baffi dritti da Hitler. Gappa, mamma, Natale riprenditela. No, sto ridendo perché non avevi ripreso quando ti hanno rilasciato due o tre volte.